GR Sport. Buongiorno da Dario Ricci. Con l'Inter capolista solitaria e la Juventus inseguitrice, è il Milan il grande malato della Serie A tra infortuni e scarsi risultati. Riflettori puntati su Kakà. Scongiurato il rischio di un'ernia inguinale, il brasiliano è però bloccato da un'infiammazione, quella che non lo ha fatto scendere in campo nella sconfitta contro la Juventus. E i tempi di recupero sono incerti. C'è un'infiammazione della regione pelvica qua, quindi solo queste infiammazioni che dobbiamo farla passare adesso. Sicuro, ci vediamo nel 2009, però cerco anche di far prima, vediamo, può passare domani come può essere 2 o 3 mesi. Intanto Gattuso è stato operato ad Anversa e i legamenti del ginocchio destro infortunato, tornerà fra 6 mesi. E domani sera a San Siro per la Coppa UEFA arrivano i tedeschi del Wolfsburg. L'altra metà di Milano, quella nerazzurra, si gode il primato e aspetta i sorteggi degli ottavi di Champions venerdì. Ma per il patron dell'Inter Moratti il discorso scudetto è tutt'altro che chiuso. Dopo l'esperienza dell'anno scorso con la Roma, no, assolutamente non possiamo pensare una cosa di questo genere. Certamente è rilassante in questo momento, ma è solo per il momento. Il Milan rimane una squadra di grande qualità, l'ha dimostrato anche ieri, sono stati i momenti del primo tempo dove ha giocato veramente molto bene e quindi rimane con delle caratteristiche di grande pericolo per noi. Rimane aperto però anche il caso Adriano, a un passo dall'addio. C'è l'intenzione certamente quello di tenerlo, perché è un giocatore di grande potenzialità. Speriamo che lui sappia superare il fatto di avere un peso sulla schiena di questo genere, che qualsiasi cosa faccia o non faccia è costantemente inseguito e messo sul giornale. Questo lo mette in una condizione di vivere con difficoltà. Se il giocatore questo lo sa superare, tanto meglio, insomma. Per noi è facilmente gestibile e per lui può essere sostenibile, dipende un po' da lui. Noi pensiamo che positivamente, pensiamo che possa gestirla e che noi possiamo gestirla, insomma. Nel posticipo della 18ª di B, il Sassuolo batte 1-0 l'Ancona e vola in testa, solitario a quota 32 punti. Per la Formula 1, un consorzio formato dalle case automobilistiche francesi Peugeot e Citroën sarebbe interessato a rilevare la scuderia Honda, messa in vendita dopo i venti di crisi. I piloti per la prossima stagione sarebbero Jenson Button e Sébastien Bourdais. Intanto un altro colosso giapponese, la Suzuki, ha annunciato il suo addio al Mondiale Rally, sempre per motivi economici. Prima le polemiche, poi le scelte federali, nominati i nuovi responsabili tecnici delle nazionali di scherma. Addio ad Andrea Magro, protagonista di contrasti con lo sciabolatore Aldo Montano. E Magro lascia così anche la guida del fioretto femminile, che passa, insieme a quello maschile, a Stefano Cerioni. Sentiamo il Neo CT a Radio 24. Un'eredità molto pesante. Conosco le ragazze, parlerò con loro, sentirò quelle che sono le loro esigenze, cercheremo di fare un bel gruppo, di ricompattare forse ultimamente, negli ultimi anni purtroppo, nonostante i grandissimi risultati individuali, non sono arrivati le vittorie a squadre. Partirò da quel punto, che è quello che in questi anni magari è mancato, per cercare di migliorare quella che è magari la compattezza della squadra, per riuscire ad arrivare a un successo di squadra e confermare quanto di buono è stato fatto nell'individuale. Per GR Sport è tutto, vi ricordo l'appuntamento con A Tempo di Sport alle 14. Un saluto da Dario Ricci.